Ohio. Salo Canna rappresenta su Zonu Denso. Sixymo. Frutti d'oro, Santani. Sixymo. Non mi tanto invece per questo giorno che ho fatto un pezzo di cioccolato, o no? Cicci tu. Poca nasanna. Su cioccolati. Potichi nica. Cicci. Cicci. Titi. Titi. Cicci titi. Si so posto si pari, potita e anati si. Questo sono su pillo in zazi che ya zizi ti. Il imbattato scontro scontro su de donia ti. Santa di frutti ti. Cicci tu e cioccolati. Non è storia barre primo si infume in ciasi movi. In panno zattire questo garro c'è na domini. Pure su nomini de vita di aui non fili castisi poi tassi sono su posto su pai non c'è te vuoi verdica c'è troppo cose vai sa di non sa basta però su tocca da curri o copai se non più su testa vita in cricavo si fai badai che una zane c'è chi ni cade ne ho cosa merenai pensiamo a parauri che ascoltano faccia venta denuda dupa di sa buca la sa qui sa da se piga gusta castia gusta gente ma cago su rap e con su raga non pinti de sa loca anda de sa vita e sa disanta cicci ti ti si so posto su pai vuol dire ai anati si questo sono su pili senza zighe e azizighi il imbattato scontro scontro su de donia di santa di frutti di cicci tu e cioccolati non è storia barre primo si infume in ciasi movi in panno zattire questo garro c'è na domini pure su nomini de sa vita di aui non fili castisi poi tassi sono su vostro su pai in casi si calentano sa voce casi odio su porta sa baci in questo luogo prende pescia poi non bio su brusa luci la sa gente a tipo vuci e zatta cara scalloni si commenta e chinisi prima resigi cara ghistioni si omini porisi fai su me l'uso si sigi si su sono de cici gttu di asuta de su balcu mo vai si nu brinchiu ca rappresenta su una grefa de marariu su chi sigi in ta cantai de mente gana de vai gana de vai intenda tutto su su ghi de neo de nai de sa prima vita da surti ma de su maria escruta za duviga ze da scuta ze sa mori vo sa muzica gttu si so posto